canzonetta da Dino Serata, Più non vorrei. Musica da Carmelo Sammit, versi da Albert M. Cassola. Accompagnata dall'orchestra classica, canta Tessie Micallef. No.